Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nuova puntata dal mondo della scuola, metà di gennaio, ormai ben trovati da Mirko Cavallini Studio e di Daici Regia, e saluto le mie due ospiti che saranno con noi questa settimana e anche la prossima. Alessandra Fardin, presidente dell'Associazione Vivere la Cittadinanza, bentornata. Buongiorno, ringrazio per l'invito. E la professoressa Iola De Monte, già insegnante, in questo caso presente come genitore, come membro dell'AGE, benvenuta. Buongiorno, grazie anche da parte mia per l'invito. Dunque Alessandra, l'anno scorso ne avevamo parlato di questa associazione, due parole per ricordare chi siete. Sì, la nostra associazione nasce nel 2010, quindi ora sta operando nel suo quarto anno di attività e promuove eventi che abbiano un particolare riguardo a educazione alla cittadinanza come disciplina scolastica. L'associazione nasce naturalmente con scopi filantropici e di volontariato e ha fra i suoi obiettivi quelli proprio di connettere i processi formativi istituzionali, quindi scolastici, con i processi formativi che avvengono nella società e quindi sono informali, e con particolare riguardo alla formazione continua, perché a nostro avviso è importante per ognuno di noi mantenere un costante contatto con le conoscenze che cambiano, che mutano nel tempo. Tra queste conoscenze ci sono ad esempio le nuove tecnologie, i nuovi mezzi di comunicazione, su cui avete incentrato un evento all'inizio di dicembre scorso. Play Music, di cosa si è trattato? Sì, l'evento Play Music rientra a buon diritto fra le nostre attività ed è un evento che abbiamo proposto quest'anno per la quarta volta, è stata la quarta edizione. Come finalità abbiamo lo scopo di indagare l'utilizzo dei nuovi media da parte soprattutto dei giovani, ma non solo, dei giovani, perché statistiche ci confermano quotidianamente che loro ne sono i principali utilizzatori, non solo dal punto di vista di acquisire conoscenze prettamente scolastiche o comunque riferite all'enciclopedia, a conoscenze precise, ma anche l'utilizzano tramite i social network per mantenersi in contatto soprattutto con il mondo sociale, con i loro amici. Ecco, questo con varie testimonianze, interventi di esperti, anche con l'esperienza concreta, immagino, dei ragazzi. Alla professoressa De Monte chiedo, da osservatrice, ormai molto a freddo, a più di un mese e mezzo di distanza, che cosa le è parso di questo incontro? Beh, molto coinvolgente, anche per me, interessata personalmente, ma interessata anche come membro dell'AGE a capire il mondo dei giovani. Quindi mi è piaciuto e l'ho seguito con attenzione. In particolare cosa l'ha colpita? Un po' tutte i tre, diciamo, le tre parti dell'evento. Metodo di lavoro innanzitutto, anche perché si avvicina molto a quello che dovrebbe essere la metodica o metodologia che devono usare gli insegnanti quando loro si approcciano agli studenti per consegnare loro delle conoscenze che riguardano il mondo, diciamo, dell'accademico, diciamo, della preparazione accademica dei ragazzi, ma anche quando si avvicina al mondo di come i ragazzi vivono la loro vita quotidiana. Le modalità con cui si è svolto, con cui avete proposto appunto questo evento, leggo nella locandina appunto nomi di esperti del mondo giuridico, del mondo informatico, la polizia postale, i ragazzi come sono stati coinvolti, Alessandra? Allora, abbiamo pensato di strutturare questo evento innanzitutto in tre momenti diversi, partendo da un elemento molto vicino al mondo giovanile, che è quello della musica, e quindi con l'avvocato Andrea Marco Ricci abbiamo trattato l'argomento del downloading musicale e quindi tutte le possibilità alternative al downloading illegale, che purtroppo molte volte succede. Abbiamo coinvolto gli studenti con esibizioni anche dal vivo di loro coetanei e soprattutto con una testimonianza molto importante di un loro coetaneo ancora, Andrea Nardinocchi, il quale ha partecipato a Sanremo Giovani quest'anno con ottimi risultati. Fra l'altro, dopo pochi giorni ha ricevuto un ulteriore premio a Bari. Ecco, a nostro avviso l'elemento musica che pervade tutta la vita dei giovani ci è stato di grande aiuto per comunicare anche tutti i rischi nell'utilizzo dei social network, che non sempre sono evidenziati quando ci si iscrive a un qualsiasi social network, ma si è piuttosto invogliati ad avere una grande cerchia di amici con cui comunicare, con cui relazionarci. Ecco, a nostro avviso, e non solo a nostro avviso, le statistiche ci segnalano questo, i rischi invece sono molteplici. Quindi poter avvicinare i ragazzi, poter parlare a loro di downloading musicali in modo legale, con questo appunto affrontare l'argomento legalità, e parlare di tutto l'utilizzo più ampio di internet e del web, è stato importante anche tramite la parte finale, in cui abbiamo affrontato varie metodologie per poter approfondire una conoscenza anche europea dell'utilizzo di internet, e quindi abbiamo parlato delle patenti europee, ECDL, dell'utilizzo di internet. Ecco, a nostro avviso tutto quello che ci può venire insegnato, che ci può, tutte le conoscenze che ci possono venire trasmesse nell'utilizzo di internet, sono fondamentali per poter aumentare una consapevolezza e per darci una cultura fondamentale che naturalmente dobbiamo crearci nel mondo di internet giorno per giorno. Le persone che sono della nostra età e quindi non più giovanissime, ma giovani nell'animo, sì, non più teenager, mi hanno detto. Ecco, e quindi non siamo dei nativi digitali, siamo portati le persone come noi sono portate a utilizzare internet soprattutto per ambito, per scopi lavorativi, evitando di usarlo alla sera o al di fuori dell'ambito lavorativo. Invece i nostri giovani prediligono proprio questi ambiti alternativi per aumentare le loro conoscenze, e il loro utilizzo è quasi veicolo di libertà. Ciò nonostante, però, non bisogna dimenticare che si tratta di un ambiente nuovo e non conosciuto dalla maggior parte di noi, e soprattutto dai giovani. Ecco perché ci è parso giusto intervenire in questo campo. Un po' dei nuovi pionieri, degli esploratori in un mondo ancora sconosciuto. Pausa, la prima di questa puntata, e poi torniamo con le nostre due ospiti su questo evento. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Sono alzato, mi sono vestito e sono uscito solo, solo per la strada. Ho camminato a lungo senza meta, finché ho sentito cantare in un bar. Che ho sentito cantare in un bar. Canzoni e fumo ed allegria. Io ti ringrazio, sconosciuta compagnia. Non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo il mio cuore. So che sento più caldo il mio cuore. Sei! Felicità. poi ballato. È mai possibile che ti abbia già scordato? Eppure ieri morivo di dolore. Ed oggi canta di nuovo il mio cuore. Oggi canta di nuovo il mio cuore. Al mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme in questa puntata dal mondo della scuola, insieme ad Alessandra Fardin, presidente dell'associazione Vive la Cittadinanza, e alla professoressa Iola De Monte, ex, ma si rimane probabilmente nell'animo. Le sottopongo, dottoressa, un paradosso. Si parlava poco fa dei nativi digitali, ne abbiamo parlato spesso in questo spazio. È capitato ad alcuni che erano in vacanza in Cadore a Santo Stefano di trovarsi improvvisamente isolati, senza la possibilità di ricaricare i cellulari, di essere connessi a internet. Per la sua esperienza, sarebbe immaginabile un mondo così per i giovani che nascono appunto in questo mondo iperconnesso? Beh, sì, si può ritornare indietro, e difatti c'è un episodio nell'evento avvenuto il 5 dicembre di Play Music, quell'incontro in cui la dottoressa Fardin ha riportato i ragazzi a vedere come si poteva comunicare nel passato. È stato molto significativo perché li ha portati sul palcoscenico e li ha fatti lavorare su una vecchia macchina da scrivere per capire come funzionava a quel tempo, cioè nel passato, la comunicazione attraverso una macchina da scrivere, con tutti i problemi che creava di lentezza di lavoro e quant'altro, di errori e tutto quel che segue. Ecco, quindi voglio dire, i ragazzi hanno afferrato subito qual era il concetto dietro a questo evento partecipativo che hanno svolto sul palcoscenico durante la mattinata, e sicuramente i ragazzi sono flessibili, capiscono e nella retrospezione del passato quello che è successo nel passato, ma anche si adattano anche molto bene volendo ritornare a questo, però anche diciamo che sono strettamente connessi con internet, e quindi sempre può essere che un giorno ritornino al passato, ma può essere anche che siano ormai quasi dipendenti da quello che è l'internet nella loro vita quotidiana. Sperando poi che questa sia una dipendenza positiva, Alessandra, perché nel senso che sia un utilizzo e non effettivamente, perché non diventi una malattia, perché se per caso non c'è la corrente può capitare, insomma. Sì, dunque viviamo in un mondo in cui la tecnologia, la scienza, l'innovazione vanno molto rapidamente e soprattutto l'esigenza di comunicare questa innovazione è ancora più presente, è ancora più rapida delle innovazioni stesse e noi sentiamo quindi forte il compito di far conoscere tutto questo mondo. E al di là di questo aneddoto che ha appena raccontato la professoressa De Monte, con cui abbiamo avvicinato gli studenti a un mondo che attualmente ci sembra il Medioevo e risale a poco più di 10 anni fa, in realtà era inimmaginabile 15 anni fa. Ecco, un metodo, uno strumento che ci ha permesso di avvicinare i giovani e di farli praticamente, di portarli praticamente ad una realtà lontana, ma il nostro problema più grande, il nostro scopo più grande era quello di farli ragionare sulla costruzione della loro cultura e quindi la macchina da scrivere ci è servita proprio come strumento per introdurre l'argomento di come si costruiscono le conoscenze e le informazioni. Far vedere come con la sua lentezza uno strumento che è stata la macchina da scrivere ha comunque creato tutta la conoscenza che noi oggi di cui noi oggi disponiamo, che compone tutte le nostre enciclopedie e abbiamo e prima ancora gli amanuensi e la stampa. Esattamente, e quindi abbiamo ci siamo focalizzati su due termini particolari: l'informazione, e abbiamo letto con gli studenti alcune definizioni che abbiamo tratto dal dizionario De Bottoli, dove per informazione si intende tutto ciò che viene accolto o comunicato nell'ambito di una utilità e funzionalità pratica o immediata. Ci siamo poi riferiti anche alla piccola Treccani, dove informazione diventa atto dell'informare o dell'informarsi nel senso di dare o ricevere notizia, dato o qualsiasi elemento che consente di avere quindi una conoscenza più o meno esatta di fatti e situazioni, modi d'essere, eccetera. Abbiamo poi portato l'attenzione degli studenti sul significato della parola cultura, la quale è invece, sempre dalle parole del De Bottoli, una sintesi armonica delle cognizioni di una persona, con la sua sensibilità e le sue esperienze, la sua religione, le sue dottrine, le sue acquisizioni spirituali, quindi la sua spiritualità e le sue esperienze. Ecco, per noi importante è far giungere gli studenti a questa conseguenza, e cioè la capacità che loro hanno, utilizzando anche i nuovi media, di costruire la propria cultura, senza dimenticare che ogni persona è medium e quindi sa essere per se stesso la sintesi e sa fare per se stesso la sintesi di quelle che ritengono siano le conoscenze più importanti, ma soprattutto i valori più importanti per costruire il proprio sé, la propria vita, la propria personalità, e quindi e soprattutto per migliorare le proprie facoltà individuali, specialmente la propria facoltà di giudizio, la propria capacità di giudizio. Dica, De Monte. Sì, io volevo dire questo, che ho apprezzato molto l'organizzazione data all'incontro Play Music dalla dottoressa Fardin, perché ha saputo unire metodi di presentazione assolutamente coinvolgenti per i ragazzi, per il pubblico giovanile, e insieme alla tematica affrontata di grande interesse per i giovani. Perciò pongo alla regista di tale buona pratica comunicativa e di metodo pedagogicamente esemplare questa domanda: quali esperienze personali e o di studio e ricerca l'hanno guidata a organizzare eventi così ben strutturati e significativi per il pubblico giovanile? Mi fa molto piacere aver ricevuto questa domanda, perché mi permette di mettere a fuoco quello che è un modello di riferimento delle nostre attività, di tutte le nostre attività, modello che abbiamo incontrato già diversi anni fa all'interno dell'ambito scolastico inglese, ed è il modello ottagonale. Ecco Alessandra, visto che il tempo corre, facciamo la pausa e poi l'ultima parte la dedichiamo anche ad approfondire questo modello. A tra poco. Dal mondo della scuola. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola insieme all'Associazione Vivere la Cittadinanza con la dottoressa Alessandra Fardin, presidente, e la professoressa Iola De Monte. Saranno con noi anche la settimana prossima perché i temi sono molti e il tempo è purtroppo sempre poco. Alessandra citava poco fa il cosiddetto modello ottagonale a cui ha fatto riferimento per preparare l'evento Play Music di dicembre, ma anche altri. Cos'è questo modello? Sì, il modello ottagonale vede il singolo studente al centro di molte agenzie educative, formali ed informali. Fra le agenzie, le primarie agenzie, ricordiamo la famiglia, composta non solo dai genitori ma anche dai fratelli, delle sorelle. Come ambiente formale ricordiamo la scuola con i suoi insegnanti, ma anche con il curriculum formale e quindi tutte le opportunità di partecipazione e condivisione che ci sono all'interno della scuola. Ma molto importante è anche il gruppo dei pari, sia all'interno che all'esterno della classe. Il gruppo dei pari ha una grandissima influenza nei nostri giovani. Molto importante però è anche la comunità informale, cioè le organizzazioni giovanili, i luoghi di lavoro, i luoghi di incontri, la parrocchia e quant'altro. Ritornando alla comunità formale, importanti sono anche gli effetti che i leader politici creano sul clima di ottimismo o meno nei cittadini. Ecco che tutto quanto riguarda la relazione fra pubblico e privato, fra ambito formale e informale di apprendimento, influisce sui valori di ognuno, sulla costruzione di valori di ognuno, quindi sulle costruzioni di valori istituzionali e religiosi, sui valori relativi alla partecipazione sociale, per quanto riguarda anche la posizione del paese nel contesto internazionale, ad esempio, questo è un altro ambito. Ma molto importante diventano proprio i processi, le istituzioni, i valori che i media educativi e non trasmettono in tutti i loro ambiti di comunicazione. Ecco perché noi abbiamo pensato di soffermarci con il Play Music nel analizzare tutti gli aspetti importanti nella formazione dei giovani. Insomma, anche i mezzi di comunicazione in qualche modo ci plasmano, ci modificano, fanno opinione in qualche modo. Tra gli interventi che ci sono stati appunto lo scorso 5 dicembre, uno si è soffermato sugli aspetti giuridici e legali. L'avvocato Andrea Marco Ricci è stato il relatore. Dottoressa De Monte, anche questo è stato un intervento, diciamo, stringente, pungente, ficcante. Sì, è veramente è affrontato questo avvocato Andrea Marco Ricci il tema complesso che voleva proporre con un taglio molto efficace, tra l'altro, perché ha presentato slide conoscitive, ma dialogando allo stesso tempo con il pubblico e anche con un suo ex allievo di corso, divenuto ora cantante e composizione di canzoni. C'è stata quindi una bella alternanza fra lezione dotta, fra virgolette, mirata all'informazione sulle norme giuridiche e il riscontro di un'esperienza di vita vera che emerge dalle passioni, piccoli psicodrammi giovanili, tentativi di elaborare un progetto di vita futura descritti dal giovane cantautore con semplicità, spontaneità, linguaggio vario e articolato, molto vicino ai giovani. Perciò chiedo alla dottoressa Fardin, quali impressioni sono emerse rispetto a questa sessione di lavoro della mattinata dal sondaggio somministrato al giovane pubblico? Sì, l'obiettivo della nostra indagine era quello di esplorare le preferenze dei giovani dai 13 ai 16 anni che erano ospiti del nostro evento verso l'utilizzo di internet e dei social network, partendo da alcuni dati riguardanti la composizione degli studenti, la loro età, la scuola di frequenza e così via. Abbiamo chiesto loro alcuni parametri sull'utilizzo di internet e quindi se viene usato o meno, e la stragrande maggioranza ci ha detto di sì e soprattutto ogni giorno. Quanti social network abbiamo chiesto e la maggior parte ci ha risposto che utilizza soprattutto un social network, in particolare Facebook. Ma la quantità di ore che dedicano è davvero notevole e aumenta quasi di anno in anno. Se fino all'anno scorso la maggior parte degli studenti ci diceva da 1 a 3 ore, oggi molti ci dicono che seguono i social network per 4, anche più, 6 ore, fino a 6 ore al giorno. Quindi con una cadenza, ripeto, giornaliera, non più settimanale come veniva rilevato fino allo scorso anno. Ecco, una cosa, per 4-6 ore o nell'arco di 4-6 ore? Perché ma poi solitamente 6 loro... ore sono tante consecutive. Solitamente loro lo utilizzano con la metodologia del... Mordi e fuggi. Ma del multitasking, così si dice, accendono il computer, si connettono con Facebook o altri social network, li lasciano in sottofondo e nel frattempo continuano a fare i loro compiti. Quando arrivano notifiche di qualsiasi tipo si staccano immediatamente e rispondono agli amici, si concordano per ulteriori incontri e così via. Noi abbiamo pensato poi di chiedere a loro anche qualche informazione in merito allo studio e quindi quante ore dedicano al giorno allo studio e se il tempo passato studiando li soddisfa. Dipende un po' dal tipo di scuola, alcuni ci rispondono che il tempo dedicato è da 1 a 3 ore, soprattutto coloro che sono impegnati in licei rispondono che invece le ore di studio sono ben di più, almeno 4-6 ore per giorno. Tutti hanno risposto che la soddisfazione è abbastanza elevata, pochi molto elevata. E abbiamo poi chiesto loro se riescono ad equilibrare il tempo che passano studiando con il tempo che invece utilizzano navigando in internet. Pochi ci hanno risposto che riescono poco ad ottenere questo equilibrio. Molti hanno risposto che non c'è nessun problema e riescono perfettamente a equilibrare le loro energie indirizzandole... Multitasking, multitasking più cose contemporaneamente. Ecco, quindi questo conferma il fatto che questi nativi digitali hanno perfettamente appreso come gestire contemporaneamente molti veicoli anche di conoscenza. E più sollecitazioni. Abbiamo chiesto loro anche se... avvertono un calo o un miglioramento negli effetti scolastici? E tutti quanti hanno risposto che non hanno avvertito nessun calo nei risultati scolastici. Allora, ci fidiamo della loro risposta, naturalmente. Certo. Ci piacerebbe però, ecco, chiedere anche ai genitori se hanno questo stesso tipo di rilevazione e di sensazione da parte degli studenti. Genitori che, secondo gli studenti, usano abbastanza internet, ma poi non così tanto e quindi non lo conoscono neanche così tanto e soprattutto non conoscono i social network così tanto. Quindi ecco, sarebbe interessante poter approfondire queste tematiche anche con un pubblico adulto e soprattutto di genitori. Allora, il nostro tempo è esaurito, ma voi tornate la settimana prossima perché di questo evento e di tutti gli argomenti correlati c'è ancora molto, molto da dire e eventualmente ci diamo appuntamento ad altre occasioni. Grazie alla dottoressa Iola De Monte, alla dottoressa Alessandra Fardin per essere state con noi. Appuntamento la settimana prossima. Grazie anche a voi. Grazie e allora arrivederci. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.